に立つ。それとこのくらいを信じた。ちょっとこのチェンネル。ちょっとこのチェンネル。Io sento un batterista che suona.Guardate, adesso io posso escluderli questi musicisti, basta che schiaccio un mute sulla loro traccia. Ok? Adesso tu, a te non ti sento ancora, tu stai suonando? Aspetta che magari arriverà qualche cosa fra un po'. Perché sai, comunque 32 misure sono veramente tante. Di solito bisogna tenere più corti i BPI. Mentre i BPM. Giusto, perché è vero. Adesso io ho messo il mute sulla mia traccia, quindi non dovresti sentirmi. Senti nessun altro? Ah beh, adesso sono tutti fermi in questo momento, giusto? Esatto. Tu senti me?